I lavori di domani di Anna Marino. Oggi parliamo di un acronimo inglese, NEET. In inglese vuol dire neither in employment nor in education or training, o anche not in education, employment or training. Però al di là dell'inglese indica delle persone che non sono impegnate nello studio, neppure nel lavoro, neanche nella formazione. Persone, una quota di popolazione, di età compresa tra i 15 e i 29 anni, in origine era fino ai 24 anni, ma si è ampliata, è in italiano né, ed è nel nostro paese una quota veramente ampia. Certe volte si parla di giovani fino a 35 anni che sono ancora coabitanti coi genitori. E proprio il nostro paese è al top della classifica europea secondo gli ultimi dati UNICEF. La Sicilia è in testa fra le regioni, seguita da Calabria e Campania. In Europa la media dei NEET è il 12%, da noi il 23,4%. E ci sono diverse iniziative però per riportare questi giovani nel mondo del lavoro e soprattutto della formazione. L'UNICEF per esempio ha il progetto NEET Equity, il cui slogan è "Non siamo in fuorigioco". Ha preso il via a maggio del 2018 e si concluderà nel 2020. E da noi? Oggi parliamo proprio di un'opportunità da cogliere nel nostro paese, per i ragazzi e i genitori che ci ascoltano. Appunto, Opportunità Giovani, il programma di formazione con Elena Danese, presidente di CESVIC Lombardia, Massimiliano Maffioli, Chief People Officer di McDonald's Italia, che lo hanno promosso insieme, e ovviamente insieme ce ne parlano per coinvolgere il maggior numero di ragazzi in questa iniziativa. Ragazzi NEET che ne studiano, ne lavorano. Maffioli, perché avete deciso di puntare appunto su questi giovani NEET, e quali lavori di domani possono aprirsi per loro grazie a questo programma, a questa opportunità? Quello che ha portato McDonald's a intraprendere questo percorso è chiaramente la consapevolezza dell'impatto che possiamo avere su queste persone, quindi sui NEET. Questo perché in Italia McDonald's è presente con 600 ristoranti ed impiega circa 24.000 persone, quindi un numero sicuramente importante, e questo è un numero con cui possiamo fare la differenza su questioni importanti come quella della occupazione o disoccupazione, in questo caso giovanile. Tante delle persone, il 55% circa delle persone che lavorano nei nostri ristoranti, hanno meno di 29 anni, quindi quella famosa range di età che è compresa, poi che riflette anche quella dei NEET. E per esempio con loro abbiamo iniziato a lavorare l'anno scorso, abbiamo lanciato un progetto che si chiama Arches Opportunities, che va proprio a formare queste persone, a offrire a queste persone delle borse di studio, a questi ragazzi, le borse di studio che gli permettono sia di pagare gli studi universitari che di formarsi in corsi di lingue, di inglese o di italiano nel caso di stranieri presenti in Italia. Ma venendo all'opportunità giovani. Ecco, opportunità giovani, già il nome individua veramente quello che è il centro del problema dei NEET: dargli un'opportunità, opportunità di formazione. Ed è importante anche capire un po' il percorso che avete fatto. Siete partiti già da un po', però dove volete arrivare e qual è il percorso che vi aspetta? Una formazione, quindi offriamo formazione a questi ragazzi, offriamo formazione a questi NEET, una formazione erogata in 28 ore in classi da 20 persone, quindi dove vogliamo veramente andare ad aiutare il singolo individuo, il singolo NEET a entrare nel mondo del lavoro. Di cosa parliamo? Parliamo di competenze, parliamo di quelle competenze che saranno necessarie a questi ragazzi a entrare innanzitutto nel mondo del lavoro, che è il vero primo passo che devono compiere, ma poi a crescere, a svilupparsi e ad avere opportunità professionali sempre migliori durante il loro sviluppo. Queste competenze le mettiamo a disposizione a questi ragazzi sia per entrare nel mondo del lavoro, direi in generale, e anche perché no, per entrare in McDonald's. Come dicevamo prima, cerchiamo tanti giovani, da noi lavorano tanti giovani, quindi perché no l'opportunità di entrare da noi. Gli obiettivi sono veramente alti: 2 milioni di giovani entro il 2025, ecco, diciamo questo a livello globale. A livello italiano avete già iniziato questo percorso nel 2018 e proseguite, diciamo, regione per regione, e soprattutto siete partiti dalla Lombardia. Ecco, in Lombardia c'è stato appunto questo primo step. Voi avete l'occhio sulla formazione, insomma, in generale, come ente. Quali sono le competenze per questi NEET che sono necessarie? Da dove bisogna partire? I corsi che abbiamo organizzato, che stiamo organizzando nell'ambito del programma Opportunità Giovani promosso da McDonald's, sono appunto corsi brevi, intensivi, e sono proprio prioritariamente finalizzati a fornire ai partecipanti metodi e strumenti, tecniche per muoversi in modo efficace nel mercato del lavoro, dalla fase della ricerca del lavoro, delle opportunità occupazionali, al come sostenere le varie tipologie di colloquio, fino a gestire la fase di inserimento in azienda. Allora è importante dirsi che oggi le aziende, a prescindere dal settore in cui operano, dalle tecnologie che impiegano, dalle dimensioni, ricercano nei loro collaboratori soprattutto prioritariamente le competenze trasversali, le cosiddette soft skill. Ed è proprio per questo motivo che all'interno di questi incontri cerchiamo di lavorare comunque su questa base. Certo, si parte appunto dalle cose fondamentali. Si parte da lì, si opera attraverso metodologie coinvolgenti, esercitazioni e quindi molta partecipazione nei gruppi per sviluppare appunto le competenze trasversali e dare anche degli strumenti per coltivare queste competenze. Ecco, ci si prepara proprio a 360 gradi a affrontare l'ambiente anche azienda, cioè fondamentalmente quello che si verifica anche nei NEET è il fatto di non avere ancora idea, e quindi avere una familiarità col mondo del lavoro e come sarà gli permette anche di acquisire molta forza. Andiamo nel pratico. Allora, Mafioli, ci racconta un po' il percorso, appunto, quali sono state le tappe, come è stata realizzata in pratica questa collaborazione tra pubblico e privato, e poi vedremo appunto con Danese e ovviamente la parte che riguarda le istituzioni pubbliche. Il progetto in realtà è un progetto globale di McDonald's, quindi che parte da Chicago, dove c'è la nostra sede, il nostro quartier generale, con questa ambizione di coinvolgere 2 milioni di ragazzi, 2 milioni di NEET, entro il 2025. Quindi questo è il punto di partenza. Come abbiamo declinato questo a livello Italia? Ci siamo dati un'ambizione più credibile rispetto a quella che è il nostro paese, quindi quella nei prossimi 2 anni, quindi nel corso di 24 mesi, coinvolgere 1000 ragazzi. Quindi andare a formare 1000 ragazzi, partendo dalla regione Lombardia, come ecco, abbiamo detto città? Prima. Quindi in realtà siamo partiti da Milano, Bergamo e Varese. Queste sono le prime 3 città con cui abbiamo iniziato nel 2019. Nel 2020 in realtà stiamo spostandoci dalla Lombardia e ci muoviamo sul Lazio, quindi facciamo un secondo passo, anche perché il programma è stato, abbiamo ottenuto in realtà il patrocinio del programma sia da parte del Ministero del Lavoro, della Regione Lombardia e della Regione Lazio. Quindi questi sono stati ovviamente i primi due passi che facciamo in questa direzione, ma l'obiettivo ovviamente è di scalare questo progetto e di renderlo un progetto nazionale, quindi cosa che stiamo già iniziando a fare in questo momento, con quello che dicevamo prima, quindi con questa formazione di come entrare nel mondo del lavoro, come scrivere un curriculum, come effettuare un colloquio di selezione. E per questo abbiamo deciso di lavorare con CESVI, per esempio in Lombardia, che ha tutte le competenze, tutte le capacità per poter poi andare a trasferire queste conoscenze e queste competenze ai ragazzi.